Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Attenzione, canale 10. C'è qualcuno qua, CQ10? Chi è avanti? Buonasera, non capiamo di parlare. Natalino Alfa 1, buonasera. Sei basso del radio. Aspetta, che forse è colpa mia. Prova a parlare. Non ti sento. Prova a parlare un attimo. Avevo il volume un po' basso, ma penso che adesso vada bene. No, si sente il bip più forte, però la radio è bassa. Nulla. Non è che c'è la batteria scarica del microfono, no? Guarda adesso, Martelli, come va? Adesso va bene. Questo è l'Eco Master Plus. Devo fare un altro po' di Eco Master. Adesso è anche troppo forte la radio. Poco fa era bassa, bassa, bassa, è quasi impercettibile. Magari anche la batteria, non lo so, non te lo so dire. Devo controllare, ma la batteria adesso va, se non per forza. No, questo va bene. Questo è una cannonata. Infatti, che si sente, è veramente bello questo. Beh, è un rumore quando fa, che fa prrrr. Forse non lo schiaccio bene, boh. Prova a schiacciarlo senza parlare. No, adesso non è sta facendo. Faceva prrrr. Forse non lo schiacciavo bene, questo è un Turner più 3. E io ho il Super Sonic. E questo è quello americano, quello grigio, dove c'è scritto Turner Plus 3. Capito? No, già c'è bene quello lì. Io è quello cromato, quello che c'è la cromatura dove si fa. E ho capito, ho capito. Me l'ha regalato un amico che gli era rimasto solo questo, perché a comprarlo non è truvi, la ciappi cucini un botto questa roba qui, gli era avanzato solo questo e l'ha dato a me, capito? Adesso c'ho un MB più 4 che è attaccato al 3009 e questo qui. E io li ho visti quei microfoni lì, li vanno a 120 euro, 130, il Galaxy 350, che cazzo può friggere un cilindro? Sì, infatti, avevo intenzione di pigliarmi un Galaxy di quelli Saturn per metterlo qua, ma poi ho detto, è troppo bizanti, sì, come faccio a farlo sparire se vengo? Spero sì. Situazione. Questi sono sopra una mensola, qua a fianco a me è un macello. Bene, ma non c'è posto qua, capito? Campagna, non c'è ritorno qua. No, avevo intenzione di andarmene lì, perché qua ne ho le scatole piene. E a voi si sta fatto qui, almeno se ne è stato per conto. quello che puoi arrostire, puoi fare tutto, Riccardo. Infatti, puoi fare di tutto lì. Ma boh, non lo so, vediamo. Adesso sono diventato anche diabetico, mamma mia, da questa, come si chiama, da questa pancreatite che mi era venuta. Quattro mesi ho una lì, mi devo fare. Poi sono finito due volte in sala operatoria. Boh. Buriano andava a Auriciano, aggiuntivo non ne posso. No, ma è facile, può mandare così lontano a fare leggere. Ma non capisco che quando uno non sta bene non può viaggiare, fare il genere così pubblico. Io mi sono sentito male, ieri in farmacia, di colpo non riuscivo a stare in piedi, da quando mi faccio una mano in piedi, sto comprendendo il dolore. Mi sono suicidare e cose del mondo, ma mi sto sentendo male, aspetta che io una sedia, prendo una sedia, lo vado a usare. Ma noi se farà dalla glicemia o magari soffri di pressione bassa, non già? No, no, non ho mai sofferto, mi prendo una pastiglia, una tariffa da pressione, per abbassare, perché è sempre un po' altina la mia, se prendo una pastiglia, va bene. Ho capito, ma avevi il mancamento, sì. Invece io ce l'ho massa la glicemia, non è che ce l'ho tanto alto, quindi che tu tanto non massa. E a quanto ce l'ho? 130, cioè, quando ce l'ho alta, dipende da quello che mangio, mi. Però mi abbassa subito la glicemia, con l'insulina. La mattina ce l'ho a 90. Già va bene così. Ma io un periodo mi si abbassava anche troppo, arrivava anche a 46, quindi umano, io me ne accorgevo subito che mi pigliava a tremolica. E allora ho fatto meno insulina, capito? Però ho fatto meno insulina, ma tra l'impicco, non si comprende, ho provato a fare un avviamento, stava migliorando in giornata, però quella della mattina è sempre un po' alta. Sarà che magari la notte si mani in vita, mani in varie, mani in singoli, prima di mani. Che ci devi venire a visitare di andiane a fanculo, andiane. Cazzo burro dottore mio, adesso è malattia questo dottore, c'è la sostituta, però le ricette cosa me le manda per posta elettronica, capito? A meno che non ti va un'impegnativa di lui, chi se non ti li può mandare. Allora ci mando a mia moglie e me la faccio prendere, capito? Sennò anche le impegnative, quelle bianche, quelle lì, tutto posta elettronica, via. No, io col veterinario faccio così, invece con la dottoressa preferisco scendere anche perché questo periodo devo far vedere, non è che potevo chiedere la cosa senza lui, lei ha sbagliato la prima volta, ci mi durerà subito la più, che invece non me ne ha dato, mi ha dato una pomata, la buona e basta, mentre invece era già, l'infezione c'era già dentro, capito? Ho fatto anche l'impatto di malva, perché mi ha detto che faceva bene, ma ha fatto un capazzo. Ha fatto uscire il pus, però la malva dice che fa molto bene, ma un po' di pus mi ha fatto uscire, sì. Però il risultato non fa, quando sono cose così grosse ci vuole la medicina. E allora, Gesù, è un macello quando è così. Guarda che vira mi si arrabbia. Non pensavo più che mi, finalmente camminavo bene, mi tranquillo, una persona normale, non c'avevo più una base con tutti i denti, donna, mamma mia. Devo camminare con la cartella perché non posso portare il piede in stato. Se esco a portare il cane, mi vado a la cartella e camminare con la cartella, non posso portare il comune. E non posso uscire con le scarpe che voglio io, devo mettermi sempre le ciabatte con le gomme, perché se no non mi ci sta chiedendo la scarpa. Mi dà molto dura. Purtroppo è un macello. Non si acciappa un dottore che ti visita e nella volta è venuta un chissà cosa. Ma se ho girato il mondo, anche lì sono stati girati là, sono andato da come si chiama un diciamo qui, la però non sono diavento naturale. Che cronica, che non c'è nulla da fare, sì, che ci sono carro che sta partendo, poi la camera non si forma dentro, capito? Se questo carro cede o praticamente si tabulisce, si spacca. E infatti è quello il guaio. A me mi aveva tolto quella di cena, l'insulina, no? Mi aveva dato la pastiglia, cazzo di sabatia mi ha fatto male, ho ripreso a fare l'insulina, perché di sabatia non andava male, questo mi ha durato. Cosa c'avevi là? No, quella è per la notte, quella lente è per la notte, quella di cena. Ah no, io a cena prendo due pastiglie e basta, metti formina e xilico. No, la metti formina, formina mi fa male. Oh ya, non sai mai come ti tu usare. Fanno una prova come la muglia, non si fa bene, va bene, ti fai mai l'arrancio. Fa la prova come ti la muglia. Infatti a mia moglie gliel'ha detto la farmacista stesso che fa male la metformina, ti fa diarrea, ti fa addolori, lui. Anche a lui fa. E c'ha gli effetti collaterali, ma io sono andato che l'ha preso un po' che sono abituato. Prima dice che mi faceva così. No, gli fa metformina a me mi va di addolori di pancia, ma addolori voci mi. E tipo cui che mi fa bene. No, magari da persona a persona, così è una persona fa male, un'altra no, però quando fa così a mamma addirittura gli avevano cambiato la cura, quando, cioè sai che mamma era diabetica, gli avevano cambiato la cura che erano dovuti a ricoverare, dopo bisogna andare al suo mondo. Sì, ero grido. No, no. Io gliel'ho detto alla dottoressa, alla diabetologa, che è una femmina che mi faceva male, e invece di farne 4 unità ne faccio 3 a cena, perché dopo 2 ore me la devo misurare e farmi quella lenta. E ma tu ne fai poca, durante il giorno quanto ne fai? Ti va di pranzo e ti va di cena, quanto ne fai? Io ne faccio 4 a colazione, 4 a pranzo e 3 a cena. A capire, che? Sì, la mia, poi mangiavo poco io pure, perché non ce la facevo a mangiare, no? Oh, dopo quello che hai avuto, Gesù Cristo mio, adesso mi ho recuperato 4 kg, se no sono diventato uno scheletro, un fantasma, sono diventato. Si mi vede da su chi? Oh, yeah. 25-40. Dimmi tu. No, io ne faccio poco, non ce l'ho alta da salirmi a 300 come sale a un bel di gente. Io mi raggio bassa. Ehi, vabbè, la io ce l'ho pedito che ce l'avevo sempre bassa, normale, posso mangiarlo, né pasta, né pane e mi alza una freccia, ti immagini? Cioè, se cosa mangio io a pranzo, un pacco di cracker, buon basso, non mangio altro, pane non ne tocco. E mangio un'insalata, una pizzina, un'insalata di pesce, due cose di niente. Poi ti puoi dire che mi ha fatto dall'andare in panza, mi accompagna e poi mi ha mangiato quello. E 2 pezzettini di pollo, 2 pezzettini di alette di pollo. Figurati, almeno io la minestra la mangio, se devo mangiare carne la mangio, però prima non ero mangiando di nulla, perché non subito pieno ero, mangiavo appena, subito pieno, con quello che ho avuto io, lui, mi hanno tolto tutta la cistifellea, mi hanno tolto, io pensavo che mi toglievano i calcoli, solo invece me l'hanno tolta. E quindi Natalia, cosa ci nulla. Poi mi hanno operato a Lernia, che mi era affitto a Lernia, tenendomi in macchina di Marco, mi messi da Lernia e mi sono fatto operare pure quella. Quindi adesso sono tranquillo. Cioè, sei sceso a sedere? Sì, deve se c'era già la lesione, magari era vecchia come lesione, no? Magari ho fatto uno sforzo, non me ne sono accorto, e mi ne ci darei, guarda, un miracolo che me la sono rientrata dentro io, già per Marco ti lo devo dire. Sì, neanche io. Uiaia. Mamma mia. Cosa vuoi ti dica? Se non stavo entrando neanche al baracchino, ascoltavo e bucando una viugana, perché no, non ce n'era voglia. E io lo stesso, che Marco l'altro giorno sono andato al supermercato e praticamente ho trovato un paio di chiavi. C'è qualcuno che ha preso le chiavi della macchina e c'era Marco a casa, detto, sono le mie quelle, sto provando, grazie. Io ho capito, ma andare, cosa vuoi ti dire? Adesso speriamo che recupero il peso un po', perché qua sono messo male. E tu prendi un po' di vitamine, qualche cosa vuoi dire? Io non lo so se li posso pigliare, bisogna dirlo alla diabetologa cosa va. Se sto dicendo che sono arrivato a pesare 52 kg, sono arrivato dalla 50 che avevo di pantaloni e c'ho la 44. Tra poco mi fanno andare a fare sfilare. No, riposo io a fare, tranquillo, so tutto accrucciupito, di gioco di denti, come ho dimagrito io, manca rigano. Non lo vedi quella pancreatite che sono vivo per miracolo? Dopo, ragazzi, ti immaginava, dico il cucino. E allora, mi è giunto l'attacco. Prima ho dimagrito, no? E se ne è accorto mio fratello, ma Natalia, ma non è che sei malato, no? A chi sei dimagrito un bel? Io non me ne ero accorto che ero dimagrito così. Cazzo, mi venne in attacco, mi sono buttato subito a ripidare. Cazzo che... Vabbè, già me lo ricordo quello, sono venuto io a prendere, quando ci hanno dimesso. E al visitato lo potevo vedere che lo faceva entrare su. Oh, manca mia moglie, a nessuno. È interessante raccontarlo, Natalia. Una volta che le passi, le cose, si va avanti, io devi fare. Te lo sai cosa ho avuto io, la gamba, cazzo. Sono stato male un bel tempo, dolore, cazzo, la gripa. Non riuscivo a andare in bagno, non potevo fare il giro, ho fatto le chiese, non ce la facevo. E a me manco un vaccino, non mi hanno e sono dovuto andare. Ho telefonato alla dottoressa mia, a quella che sostituisce il mio medico, no? E gli ho detto, guarda, io sono prenotato, però a me non mi ha chiamato nessuno. Faccia una cosa, vada che glielo fanno, senza appuntamento. So che andando, e mia moglie e Milano in battuta. A vado 17 devo andare a Platamone a fare chissà visita, lui 19 devo andare a farmi la seconda dose. Dove sei andato? Dove ti sei trovato? E allora? E subito me l'hanno fatto. Sono andato verso le 9:30, alle 10:30 me ne stavo andando. Sono velocissimo, una fila enorme, c'è cazzo, chissà che ora ne ci ha giudito da me, e invece sono velocissimi. Sì, perché sono in tanti, capito? Qui sono vigili urbani, tutti di macchina, io ho visti, te l'ho detto che c'erano quei vigili, però sono veloci perché sono in tanti, capito? No, anche io ti ho fatto il tempo, quale ti hanno fatto a te? Il Pfizer mi hanno fatto. E anche a me ti hanno fatto il tempo. Perché stavano facendo anche AstraZeneca. Ma quelli che hanno patologie come noi AstraZeneca non glielo fanno, non penso perlomeno. Cazzo, mio cugino è andato lì, gli volevano fare la AstraZeneca e se ne è fuggito, non ha fatto. Che ha fatto? Io sono dello stesso parere, infatti ho chiesto, ma qual è stato vaccini se ti devono far male ti fanno male dopo un po' di tempo. Ma mi ha fatto solo il primo giorno niente, il secondo giorno ho cominciato questa stanchezza come quando c'è la febbre, c'è la presa di infatti mi sono misurato anche la febbre, adesso c'è la febbre, niente, avevo 36,7 una cosa del genere. Dopo andavo a guardare il telefonino, vedevo tutto quanto annebbiato, oh cazzo, questa cosa non si sta facendo male, tutto annebbiato, per un giorno mi è durato, poi mi è sparito tutto. A mia moglie questa stanchezza dice, invece a me non mi ha fatto assolutamente nulla. Perché dipende sempre da persona a persona, capito? C'è uno che magari soffre di più, queste cose, l'altro di cui fa nulla. A me il primo giorno, ti ripeto, non ha fatto nulla. Sembrava quasi che non ne avessi fatto. Mi ha fatto stare un quarto d'ora lì, seduto. E poi mi sembra andato. Sono stato un quarto d'ora seduto e mi sono messo con la mano nella testa, no? Mi sono appoggiato la testa alla mano. Sono subito avvicinato, sta male, no, stavo pensando. E via. E subito hanno pensato che ti intendi male. No, a me non mi ha fatto niente. A mia moglie dice, mi sento stanca, mi sento strana. E anche a me mi ha fatto quello. Sembrava che avessi la febbre, come quando c'è la febbre, lui dice, sono stanco, sta bene solo con il capo e basta. Se ti muovi, se ti ripeti, ti dice, sto canto debole, non riesci a guardare, cazzo, non riesci a guardarmi da di fare. Un abbraccio, a me non mi ha fatto nulla, assolutamente nulla. E da persona a persona, c'è a quelli che gli fa male il braccio, a me neanche il dolore al braccio, a me quando me l'ha fatto la dottoressa nostra, quello anti-influenzale, allora mi ha fatto male al braccio, è la mano di la bassona che ti rubati, boh. No, a me il braccio mi ha fatto anche male al braccio, mi stavo dimenticando, ho dovuto prendere lui, perché andava aumentava sempre di più. Sembrava una cosa da nulla, poi ha cominciato a aumentare, aumentare, faceva tutto un bel male, non riuscivo a stare in nessuna posizione, no, ho preso Lucchi, mi è passato. Vedi, io Lucchi non lo posso prendere. Perché? Nulla, solo posso prendere solo la tachipirina, basta. Capito? Perché prendo la cardiaspirina io. Ah, è vero. Lasciamo tutti invece. Allora, nota che dobbiamo goderci un po' la vita, perché i figli sono cresciuti, tutta la malattia. Infatti, me la sono proprio più godendo la vita. Gesù Cristo mio. Vabbè, sono periodi che passano, allora, dopo la tempesta viene anche sereno. E speriamo, se non muovo prima, a chi ho messo che duro un poco, così. Uno se si abbatte è peggio. Uno deve sorridere la vita, per quello che riguarda. Non bisogna abbattersi. Io la vita. Sto bene adesso, nel senso che... sono tranquillo, solo che il fatto del piede che ha pensato un po' un po' da più. Infatti di tutto l'altro stai bene tu. Ma io pure mi sto rimettendo, adesso vediamo un po' cosa vuoi che dica. Che ho recuperato 4 kg adesso. Mi sono pesato l'altro giorno e ne pesavo 56. 52 kg sono arrivati da pesare. A te lo vuoi immaginare? Quanto pesavo? Più di 70 kg pesavo. Quasi 80. Vabbè, io ho fatto una dieta, sono sceso 50 kg. Quando mi trovavano gli amici non vedi come scendo. Un giorno ci sono andato in città a mercato, io mi sono pensato amico mio, le avevano detto una figlia da poco, c'era la bambina piccola nel carrozzino, mi sono dicendo ciao piccolina, bella bella lì, lei stava ridendo la bambina. E lui mi ha baisato, vuol dire già gli altri uomini, poi mi guarda, oh già mamma, ma tu sei, tanto sei, mamma lì, sa. il telefono già. Ok, sono tornato. A Marco non è più sentito? No, no, a nessuno. Ma avete avuto parole? Che... Sì, una volta ce l'ha presa in un momento bagosa. Una cazzata, come se la prende lui, e no, mi ha cancellato, mi ha messo nella lista nera, manco telefonare lo posso. Marco è una brava persona, però è per malosso, troppo per malosso. Io non so come manca chi non l'ha mai dato in faccia. Io ho detto solo, qui un giorno la sergente mi dice, rispondete a col telefono qualche uomo. Come si razza, boh, cosa vuoi ti dica? Ma giù diventa un macco ballassi io. Prova a telefonarlo e praticamente mi ha messo sulla lista nera. A lui manco il telefono gli squilla quando lo telefono io. E allora, così fa, e così sia. Se ci ho fatto la fiducia più amicizia, non so che sapere più. Vabbè, che si è avvenuto così. Io l'ho sempre stimato, sempre voluto bene, come amico, la verità. Era sempre con me che usare, sempre in casa. A volte rimaneva anche a mangiare, abbiamo fatto la festa insieme. Ah, tu, però sono di colpo, lui ha girato. E come pure ha girato? Una volta mi sembra che non poteva venire a accompagnarmi, io gli ho detto di chiamarlo lo stesso. Gli ho detto a mia moglie a dirgli no, perché aveva preso il telefono mia moglie. Lara di cazzo, sei arrabbiata, chi l'ha giudito tu che non fazia niente, che mi arrangiavo lo stesso. Io da misurare le parole a volte con le persone, specialmente quando sono. Ma che c'è una cosa inverosimile? Io ho detto, dille che non fa niente. Magari gliel'ho detto con la voce alta e lui si è offeso, si credeva che io ce l'avevo con lui, capito l'hai già. E mi ha detto, praticamente dal giorno non potevo più neanche telefonarlo, non solo d'altro. Io penso che l'esame di coscienza se la faccio. Io non gli ho mai fatto nulla di male, la stessa cosa. Ci siamo sempre aiutati a vicenda, dico la verità, se lui è venuto mi ha aiutato a me come mi ha aiutato tu quando ho avuto bisogno. Io me ne sono grato di questo, però non lo so, ha girato lui e una volta lo stesso me l'avevo fatto, poi mi ha trovato in strada a contare, si è fermato e lui mi ha abbracciato. Ma se spento mi piace, no? Sì, ma boh, io la giudico, gli ho detto solo che non faceva niente, che già cercavo di arrangiarmi, magari gliel'ho detto a voce alta e lui ha pensato, deve essere che io ce l'avevo con lui, ma se lui non poteva venire perché era impegnato, cazzo non lo posso costringere a uno se non viene, no? Se non può venire. Boh. La radice l'ha pigliata, ce l'ha legata a dito, non c'è nulla da fare. E non l'ho più cercato infatti perché ho visto che non mi rispondeva. Ma a me è capitato, io entrando nell'ascensore al supermercato di Vicenzo, proprio faccia a faccia, non mi ha manco pagato in faccia. E forse come ti rimane di piatti, cosa vuoi dire, tanto. Ma io non ho in faccia, se vuole fare le sue scelte. Mi è dispiaciuto perché dico la verità, eravamo molto amici, eravamo sempre insieme, uno a casa dell'altro, lui la mattina passava sempre a casa, uscivamo insieme a volte con il cane, scusate di ricordare una volta l'ora, insomma eravamo sempre insieme. Già lo so, ma dalla volta che è successo quel fatto lì, che lui non poteva venire perché doveva portare il nipote a scuola, mi sembra, no, un impegno che aveva comunque era, e ha detto che non poteva venire, io gli ho detto, vabbè, digli che non fai nulla, gli ammarrangio un mattezzi da giudito. La radice rapigliata, proprio un bel maloso. E anche pace con mio fratello gli avevo fatto fare. Dimmi tu. Ah, ecco un angelo. Ma io gli ho fatto fare pace mia a lui con un angelo e... però visto là dice lui grazie. Guarda, io lo so che lui capisce di sbagliare, però è talmente orgoglioso che non si abbassa, ha un carattere duro, ha lo stesso suo carattere, non si abbassa a dire già forse ho sbagliato, forse qua, forse no. Non si abbassa, non riesce di più a andare, chiamarlo, farlo, cercare di parlare. Io, a me mi ha lasciato tutto aperto, mi ha lasciato Facebook aperto e tutto quanto, la verità, non mi ha cancellato da nessuna parte. Sulla lista nera del telefono, magari non lo sapeva neanche fare, se l'ha fatto fare apposta. A me e a mia moglie, quando tu lo telefoni non ti risponde, ti dici che non può ricevere telefonate, capito? Nella lista nera mi ha messo. L'uomo nero! Come fare meno? E allora, cucino nero. Ciao Gianni! Ciao Natali! E allora, cosa si dice, cosa si dice? Con l'uomo nero state parlando, cosa è questa storia? No, l'uomo nero non vuole parlare con lui, capito? Stiamo parlando di un amico che abbiamo in comune che è molto fervoroso, e non mi dirà come se la prende, capito? È una bravissima persona, però devi misurare le parole, perché se no non si abbiglia giù. Ah, babù, basta, non mi interessa. Non mi interessa dopo nel raccontare. Comunque vogliamoci bene, che è meglio, dai, che la vita è breve, non è il caso di andare lì a bestecciare, eccetera, eccetera, ci mancherebbe altro, abbiamo altre cose più serie da pensare, altro che bestecciare. Ui. Stavi dicendo, Natalino, non ti ho sentito perché in quel momento hanno preso anche Gianni, Natalino si è attentato. Sono andato a aprire a mia moglie che ha suonato e Lugani si farà di tromba. E la Pagendi è subito, mi la intendi, prima arrivi ai nonni. Prima di suonare tu sei già Pagendi, dimmi tu. Ah, se il cane è così, se gli apre la porta, già lo sai, il cane tende subito ad uscire, già lo credo. No, lo stavo dicendo, siccome tu stavi dicendo qualcosa, ma hai preso anche Gianni, non ho capito quello che hai detto. Ecco, perché era l'uomo nero che non voleva parlare con noi, io non conosco, che è una bravissima persona, però se non vuol dire, cioè secondo cosa dici lui pensa che ce l'hai con lui e ci offende. Vabbè dai, lasciamo riprendere queste puntiglie così stupide. Vogliamoci bene, che è meglio, come ho detto poc'anzi, una vita breve e godiamocela finché ci siamo, poi quando non ci saremo più, pazienza. Oi, vabbè dai, adesso mercoledì vado a fare il vaccino, vado e dunque speriamo bene, dai, niente di diverso dalle solite cose, solita vita, solita clausura, niente di più, però comunque andiamo avanti lo stesso, avanti Gianni. Infatti, io l'ho già fatto il vaccino, li ho fatti tutti e due, il 14 ho fatto il secondo, ho fatto il Pfizer, ho fatto il seguito, e un po' mi ha fatto effetti collaterali, mal di braccio, un po' di stanchezza, poi per un giorno vedevo meglio, non vedevo bene. Quindi possono essere gli effetti collaterali che possono fare. Ma ieri l'ha fatto mia figlia, l'ha fatto e sono un leggero dolorino al braccio e niente di più. Così lei è giovane, per cui è diverso il discorso. Non è come fanno con le persone di una certa età, come posso essere io ad esempio, è già diverso. Ma io sono prenotato con la piattaforma. ancora alcuni giorni, mercoledì praticamente, dai. Sia io che mia moglie, tutti e due, andiamo insieme, più o meno allora è pranzo, dai. Così ci sarà meno affollamento e vedremo un po' di risolvere anche questo fatto. Riprendi già. E dove lo fate? Alla promocamera sono prenotato per il giorno 26. Ah, e tu l'ha fatto una salita, ho detto che gli altri brigati in fretta, anche se c'è molta fila, ci sono preferiti. Sì. Sì, lo so. Sì, infatti l'ha fatto anche mia figlia ieri, lì, nonostante che era prenotata ad Alghero, era per il giorno 28, se ricordo bene, invece è andata lì e ha detto, ma quando vai, io abito a 200 metri da qui, devo andare ad Alghero per farmi il vaccino. Quando qui c'è il DAB che potrebbe benissimo farmelo. E così è stato. E gliel'hanno fatto subito, non sono stati lì. Ah, vabbè, dice, adesso è qui, glielo facciamo, le ha detto. E così è stato già. Ma infatti so che la promocamera lo fa una chiunca, anche se sta appuntamento. Come lo fanno? Non c'è problema. Basta che abbia, come si chiama, la carta sanitaria. Lo fanno su. Non c'è nessun problema. E vabbè. E vabbè. Speriamo che lo facciano al massimo delle persone, perché noi adesso siamo tra i più bassi come contagi. Adesso stiamo andando bene perché stiamo vaccinando le persone e si vede la differenza. E tutti che dicano quando vaccini la differenza si vede. Sicuramente sì, se lo stanno facendo vuol dire qualche effetto positivo ce l'ha pure questa vaccinazione, se no perché l'avrebbero fatto. Speriamo bene, speriamo che non succeda come l'anno scorso, che poi in estate quando hanno cominciato ad aprire lì a Porto Cervo eccetera eccetera, insomma la Costa Smeralda, è successo il fatto track, che poi sono aumentati i contagi a dismisura. Speriamo che non succeda la stessa cosa, ma comunque non dovrebbe, visto considerato che adesso la gente, il 30% mi sembra di tutti gli italiani sono stati già vaccinati, per cui non ci dovrebbero essere questo rischio così grande come c'era l'anno scorso. Staremo a vedere, che Dio ce la mandi buona. Avanti Natalì. Sì, non ci dovrebbero essere, verranno già quelli vaccinati, verranno, capito, in estate, non penso che ci sia, se no è un macello, se tornano a salire i contagi, tutte queste cose qui, ce la prendiamo buona già, non usciamo più. No, la gente che entra qua dovrebbe essere vaccinata, non esiste. Già, lascia perdere, è perché tu sei convinto che fanno i controlli, anche un mesetto fa dice non sarebbe entrato nessuno qua quando eravamo russi, eppure entravano lo stesso, nonostante che erano russi, ne sono entrati 18.000, ma cosa mi sa dire, loro dicono che fanno i controlli lì ai porti e anche in aeroporto, ma cosa fanno i controlli, non fanno l'accidente, lì niente, addirittura venivano con la la certificazione fatta online, questi ragazzi se la facevano loro per conto loro, così arrivavano e questi stupidi in Sardegna li lasciavano passare anche con i certificati fasulli, ma dai, è incredibile. Vabbè, dai, avanti Natali. Ma speriamo che non succeda, perché sennò succede una catastrofe veramente. Speriamo proprio che non succeda, perché sennò sarebbe veramente una tragedia, no, e non è poco, soprattutto considerando tutte le attività che ci sono ferme e soprattutto quelle che hanno dovuto chiudere questo a causa del Covid, perché si erano caricate le spese e giustamente non guadagnando, non lavorando, non potevano far fronte alle spese che richiede quando uno ha una partita IVA, per carità. Vai Gianni. E io dico la verità, quando c'è la codice addosso ho fatto 150 km e non ho trovato un posto di blocco, perché dovevo andare a San Teodoro, dovevo prendere della roba della mia compagna e siamo andati a San Teodoro per prenderla, quindi avrei io ho telefonato già la stradale per chiedere, ma insomma se c'è questo problema che deve mettersi la roba dove la trovava, può andare. Però dice deve dimostrarlo, poi che la trovava lì, vabbè non c'è problema. E ho fatto cazzo, ma siete convinti? Ho detto sì. E sta, vabbè, allora può andare, arrivederci. Se mi sta mandando una mano, chissà quanto tu costi. Figurati, la cosa vuoi che ti dica. Purtroppo è così, purtroppo non ne fanno controlli. Io lo stesso ieri mi sono fatto una passeggiata, ero a Tempio e sono salito anche all'imbarazzo dove ci sono le antenne eccetera e dove c'è la Madonnina. Ebbene, non abbiamo trovato nemmeno un posto di polizia, niente, tutta libera la strada, sia all'andata che al ritorno. Ma quando mai, ragazzi, non ci dovrebbero essere le pattuglie ogni tanto in tanto, fermare un po' di macchine, controllare, perché si sa, quando tu lasci tutta questa libertà, la gente fa tutto quello che vuole, sapendo che non ci sono controlli. È vergognoso, guarda. Io vorrei sapere dove finiscono tutti gli agenti che devono fare i controlli. Non lo so, no, vabbè, comunque. Avanti, Natale. Sì, aspetta, sto in ascolto un attimo che sto facendo cosa, riprendo subito. Beh, io se sono andato lontano, avanti, vicino a casa mia c'è un albero che fa ombra, c'è la pattuglia della polizia sotto, che stavano prendendo l'ombra, si stavano rinfrescando, invece di, o stavano fissando qualcuno, questo non lo so, però era per Mario. Figurati, ma cosa avevi detto? Così lo stesso discorso, ma in città, io quando salgo così in città adesso non vedo mai un vigile urbano, non vedo mai niente, boh, ma dove sono i controlli? In questa città è proprio abbandonata a se stesso così, e non va bene, non va bene assolutamente. Quando vado invece nella zona delle poste centrali, le aggregate Sassari, lì al limite posso vedere quella specie di pulmino, camionetta, cosa accidente si chiama, dei vigili urbani, però loro non ci sono mai, la macchina c'è e loro non ci sono mai, chissà dove finiscono, boh, non credo che vadano a piedi a fare servizio eccetera, probabilmente sono al mare, io l'ho preso così poi, magari mi sto sbagliando, non lo so già. Quando è l'ufficio mobile, quello che c'è senza sapere che in Italia, c'è la morte di sabbia dentro l'ufficio mobile, loro c'hanno tutto computer, macchina da scrittura, quello lì è l'ufficio mobile, quando ti fermano, ti fanno sbarbare, ti fumano, e gli arrivano a prendere i punti della patente ai poveracci che cazzo che vanno sempre piano. Tanto mi hanno preso 3 punti alla patente più 120 euro di multa sulla multimutica. C'era il limite di 50 e stavo andando a 70. La grande velocità. Purtroppo, magari perché per dimostrare che stanno facendo servizio, no? Alle volte lo fanno anche per quello, perché magari stanno delle ore così inoperabili e poi magari eccetera, andiamo e ritorniamo in ufficio così e dimostriamo che abbiamo fermato qualcuno, facciamo la multa e magari si è capitato tu e ti hanno fatto la multa per questa cretinata qua. Oi, vabbè, comunque. Così già, non c'è niente da fare, no? Ripeto ancora una volta, io tutte le volte che salgo in città non vedo mai un vigile urbano, mai. Chissà dove sono rintanati. Provocare a sopra i vigili urbani, ma se no dentro qualche bar. Ah ecco, perché per dissetarsi, vanno lì per dissetarsi già. Sì, vanno, questo ti ho visto da me con i miei. Tu lo sai benissimo che io ti facevo il servizio ambulante, di fronte c'è il circolo del comune e praticamente vanno tutti, vanno con la pattuglia, ti hanno detto, bevono, ti fanno la chiacchierata. Già lo so che fanno anche queste cose, ma io mi ricordo negli anni passati, non adesso, tanti anni fa, passavano da me addirittura anche con 2 macchine, si fermavano, oh, ciao Giulio, salutando eccetera eccetera, ma dove stiamo andando, dice, a farci una rostita, e loro con la macchina di servizio, e andando in campagna a farsi la rostita, nelle ore di nell'orario di lavoro, ma comunque dove va, già lo sai, in Italia è permesso tutto. Avanti. parte da Tali. Sì, hanno compiato dai Barracilli. Non so come ti dice. Sono ladro furende, sono barranzese buffende. E lo stesso discorso vale va anche per gente dell'Enel e anche gente della Sippi allora era la Sippi, oggi quelle persone sono anche in pensione, venivano lì tutte le sere, quando verso le 4 tutte le sere, anche prima, alle volte addirittura mi aspettavano che aprissi la sera io, e loro erano già lì, le squadre, persone, sto parlando di 5-6 persone lì, non sto parlando di una persona sola, lì con due macchine, di servizio, alle 5:15 partivo alla IUC che è ora di andare a consegnare la macchina, perché a quell'ora bisognava consegnare la macchina, e loro erano lì più di un'ora e mezza, a volte anche 2 ore, senza fare niente, facendogli i ladri, perché a questo punto si può dire che erano ladri, perché stavano rubando lo stipendio senza lavorare, Gianni. Perché magari finivano prima di fare il lavoro, per fare orario, capito, si fermavano lì, siamo arrivati. Sono pagati anche bene, se li sgamano, li buttano fuori, prendono un lavoro d'oro. Certo che sì, ma è così, infatti. Uno di questi abitava a Senno, non so se abita ancora lì, due di questi abitano in via Valdezza, eccetera eccetera, e poi altri ancora, per dirti no, erano sempre praticamente inoperabili. Oh, yeah. Una vergogna, ragazzi. C'è gente che lavora dalla mattina alla sera sul ponte, facendo intonaco, facendo lavori pericolosi e pesanti soprattutto, e guadagnavano molto di meno di loro. Oggi sono in pensione, tutti quelli hanno una buona pensione, tranquillamente, avranno anche loro diritto alla pensione, questo senz'altro, però hanno lavorato la metà di quello che si dovrebbe lavorare nella vita già. Sono stati fortunati a ottenere certi posti. Avanti, Natalia. Vabbè dai, io vi ascolto che mi sto facendo l'insulina, dai. E io mi allontano un secondo di che domani. Bravo, d'accordo, sono qua. Sei tornato? Sì, sono tornato, dai. Cambiato l'acqua di urina. Ogni tanto bisogna cambiare. Io l'avevo cambiata mezz'ora fa, più o meno. Poi sono entrato qua, ho sentito che ce l'avate, allora sono entrato anch'io. Va bene così, dai. Ma c'è cos'è? Che bello molto, che bello molto acqua. Ma questo anche bene, però non necessita niente, perché se c'è anche l'acqua, se ne bevi troppa ti cancella tutte quante le i valori, ti abbassa. Certo. E anch'io dovrei berne 1,5-2 litri al giorno, ma non ci riesco a bere nemmeno 1,5 litri. Cosa ne becco io di quei bicchieri da 20 cc, quanto ne posso bere in un giorno? 7, una cosa del genere, dopo 7-14 praticamente non arriva nemmeno 1,5 litri, eppure mi consiglia di bere almeno 1,5-2 litri al giorno, ma comunque, e non è facile, guarda, già bere tutta quest'acqua, non è assolutamente facile. Io 2 litri mi bevo tranquillamente, ma proprio di gusto, ti sto dicendo, vabbè, la voglio sempre fresca io l'acqua, sia d'estate che d'inverno, non mi piace l'acqua a temperatura ambiente come la bevo oggi, la voglio sempre fresca dal frigo. Anche d'inverno? Anche d'inverno tu la bevi fresca dal frigo? Sì, anche d'inverno. Sempre. Non mi piace l'acqua a temperatura ambiente. Ok. Va bene. Beh, certo. No, io bevo sempre... Prima bevo acqua minerale, gasata. Adesso sì, sempre acqua minerale, però senza essere gasata, naturale. Io bevo acqua panna, bevo, dai. Qualche volta qualche bicchiere anche di stamattino, gasata, perché quella la beve mia figlia. periodo, stamattina è bloccata e non ce n'è in vendita. Come gusto è la migliore, non ci sono dubbi, come gusto sì, però non è la migliore agli effetti della salute. Dicono che la migliore sia la Sant'Anna addirittura, perché ha meno sodio e soprattutto ha meno cose, come si dice, ma adesso non mi viene. Vabbè, già mi hai capito comunque. E scusa, quello che crea i calcoli, come si chiama? Non mi ricordo. Calcare. Ehi, una cosa del genere, non è proprio calcare, dai, non è proprio calcare. Però, insomma, ce l'ha più basso, un po' che pallone, dai. Ce l'ha, ne possiede di meno, l'acqua minerale, cioè l'acqua Sant'Anna. Però non è a tutti che piace, perché l'acqua Sant'Anna ha un leggero, ma leggerissimo amarognolo, e dunque in bocca alle persone, tante persone non le piace per quel motivo lì. Anche tu lo senti questa mano, allora non so solo io che sento questa mano dell'acqua Sant'Anna. E l'acqua Sant'Anna diciamo che è buona perché c'è un valore di buono, però per dire mia figlia dice una cosa, non risparmiate mai sull'acqua, papà, perché l'acqua dovete prendere quella buona, perché quella che ha calcare, roba del genere, fa male proprio i calcoli, eccetera, eccetera. Risparmia sulle altre cose, ma sull'acqua non bisogna mai risparmiare. Certo che sì, l'acqua è fondamentale, l'acqua è un liquido importantissimo per il fisico umano, ci mancherebbe altro. Beh, così, sì, quella che ha meno valori, diciamo, che possono far male, è proprio la Sant'Anna, ed è specialmente a Marognola. Però è solo una questione di abitudine, perché se ti abitui va bene lo stesso. Ammesso che c'è anche la Sant'Anna, cioè la, come si chiama? La Sant'Anna anche, mi sembra che ci sia anche Frestante, adesso non mi ricordo bene, ma mi sembra che di averla vista in quest'ultimo periodo che c'è anche la Frestante.